Allora. Poco ti ha staccato tutti i fili, compreso anche il mio, e non sentivo più nulla. E c'era la musica a palla, tu pensi a uno spettacolo. Allora, bene, ci si sta organizzando per iniziare questa diretta che in teoria dovrebbe terminare alle 23, ma intanto poi se non ci abbiamo niente da fare occupiamo il web fino a domani mattina, e chi se ne frega. Si autopresentano, perché la cosa è più simpatica. Presentatevi intanto, dai, su, vi stai a passare tutti insieme. Stef fa un macello, Stef. Eccoci. Eccovi. Finalmente. Allora, intanto voi siete il palcoscenico al Neon. Sì, palcoscenico al Neon. Io sono Ciccio alla voce e sono anche la voce del gruppo, e c'è qua il mio amico compare presente Enrico, che vuole salutare tutto il web. Saluto tutto il web con tanto affetto, web. Bene. E noi intanto vi diciamo subito che siamo particolarmente contenti di aver iniziato questa prima puntata con loro, perché oltre ad aver portato l'ultimo lavoro, ma non è questo il motivo per cui stanno qui, ma fondamentalmente per stare insieme e trascorrere insieme ai nostri ascoltatori, i loro fans, un momento insieme, un momento dove confrontarci, parlare, vedere su più argomenti. Allora, partiamo con la sigla e poi partiamo con le domande che ti eri preparata raffica, tutte quante a memoria, le sai? Vado, Un'altra intervista. Un'altra Radio Roma. Eccezionale. Io direi veramente eccezionale. Un'altra intervista. Un'altra Radio Roma. Nella carbonara. Ce la mette la cipolla sotto licenza Creative Commons. Un'altra intervista. Un altro modo di domandare. Un'altra intervista. Per sapere di tutto. Un'altra intervista. Per parlare su tutto. Un'altra Radio Roma. Importante. Un'altra intervista. Un'altra Radio Roma. Importante. La musica Creative Commons non è smessa. E basta. Eccoci qua. Questa era la sigla che io e lei abbiamo pensato, come al solito, in maniera cruda, nuda, insomma, come ci escono tutte le cazzate che riusciamo a fare nella nostra vita. E il bello è che c'è qualcuno che ci segue, e questa sera qui con noi abbiamo un gruppo che ci ha seguito, perché è qui. E qui stiamo cercando anche di metterci ognuno a proprio agio, in modo tale che tutto possa essere il più tranquillo possibile. Stiamo riuscendo, comunque. Esatto. Io incomincerei. Guarda, sì, dico una cosa a volo, così sì. Saluto i nostri tre compari che... I componenti che mancano, che Niva non ci ha lanciato. Allora, loro sono 5, qui questa sera ce ne sono 2. Salutiamo Simone, batteria, Lorenzo, basso, e Lele all'altra chitarra. Bene, io comincerei subito con una domanda, così a bruciapelo. Intanto vorrei capire, a me, poi arriviamo a fare il discorso sulla musica, eccetera. A me quello che interessa è l'aspetto umano. Come cacchio vi siete conosciuti? Come ci siamo conosciuti? Noi siamo l'avanzo di quello che era il panorama musicale di Guidonia Tivoli un 6 anni fa. Conoscenze, Guidonia non è una gran città, insomma, le persone che suonano ci conosciamo tutti. Eravamo in pochi che eravamo rimasti senza gruppo ormai e ci siamo riuniti. Una scelta di necessità quasi. Idea di Stefano, ovviamente, e de Simone, che erano i più avvelenati per tirare fuori un gruppo. E niente, io conoscevo Lorenzo, il bassista, abbiamo cominciato in 4. Dopodiché sono passati gli anni, abbiamo sentito la necessità di lavorare cioè Stefano ha sentito la necessità di lavorare distintamente su chitarra e voce. Abbiamo preso un altro elemento, Lele, che veniva pure lui da altre esperienze più o meno fallimentari o fallite, che si è ritrovato bene con noi, comunque anche d'amicizia a livello umano, insomma. E per cui adesso siamo in 5. Comunque, quando all'inizio degli attivoli suonavate Guidonia. Guidonia, scena di Tivoli che va intorno. No, allora, la scena è Guidonia. Perché... Rivediamo Guidonia. Cioè, quando hai iniziato a Guidonia, hai cominciato a suonare salette, garage, ma avete pensato subito a fare dei pezzi vostri o le cover, come tanti gruppi qui a Roma che fanno cover perché guarda, cioè, sei arrivato subito con l'idea dei pezzi. Fondamentalmente questa è una bella domanda, perché non... cioè, le cover le abbiamo cominciato a fare 30 anni. Praticamente, ma ti sto a parlare di due cover, di una cover a disco. Cioè il beh, secondo me il fatto di fare musica, se fai, cominci a fare cover, sì, magari ti trovi bene in situazioni che vanno bene, ecco, per fare piazza qualche soldo, però io sinceramente ancora non so quanto poi umanamente te dà a fare cover. No, poi anche la necessità che se ti piace suonare, ti piace anche comporre e vedere qualcosa che credi. Ma sì, cioè, fondamentalmente se non la vogliamo chiamarte, chiamiamola comunicazione, espressione personale, quindi cioè, tutto sommato fare cover è un po' così. È una cosa. E perciò vabbè, non aggiungo. Okay, non aggiungo. No, nonostante cioè, quando abbiamo cominciato noi, la suonare c'è stata per esempio Radio Rock che faceva solo cover. Solo sì, cover, è vero, cover, ma proprio a alti livelli, cioè se suonava solo se facevi le cover. Sì, e anzi, suonavi pure tanto se facevi le cover. Quindi era Feus, era una serata. Mazza, Feus, i primi anni al Cube pure, cioè comunque. Mentre adesso sono un po' più allargati, ma facevano Garbatella, è vero. Facevano seratone. Forse ci conveniva fare cover. Era prima dovete fare cover, adesso fate i vostri, che la musica adesso dovrebbe se manda in giro. E invece fondamentalmente non siamo una difunti. E perciò dico, allora, ma ho cominciato a fare subito. Cioè, quando è che avete detto, vabbè, raga, ci siamo pezzi abbastanza per fare un CD, una cosa dopo prodotta. Ma fondamentalmente ci messo, cioè, ma... Ah, sì, no. Beh, sì, fondamentalmente i palcoscenici nero c'erano anche 10 anni fa, però lì era una cosa veramente minore, cioè con altre persone proprio. Ok. E qualche pezzo poi è stato preso di quella produzione là, è stato preso dai gruppi di Guidonia. Tra l'altro quelli che poi sono pure un po' usciti, diciamo, no? E poi da lì in poi, quando ci eravamo accorti che poi alla fine, cioè, il gruppo non c'era più, tutti suonavano tranne noi, vabbè, ricominciamo da 3-4 pezzi, siamo trovati subito 3-4 pezzi, e nel giro di 6 mesi ho fatto il primo CD nel gennaio 2005, Iconoclasta, 10 pezzi. Nel 2005? Sì, 2005 primo CD demo, però insomma primo CD. Vabbè, certo, prima cose autoprodotte sempre, perfetto. E allora io sì, potremmo passare anche un bel posso pezzo. Posso dire una cosa? Appena tu dici questa cosa. Un microfono che un fa microfono cagare. No, non so, come no, si sente la voce? Uno schifo. Attufata. Attufata. Leva pure basso. Mister Gasperino sta in cantina. Intervistarci, no, il problema è che questo lo dica, era il microfono che suo padre aveva rubato in parrocchia. Era il microfono del gruppo nostro quando suonavamo e cantavamo, esatto, 20 anni fa. Abbiamo detto, hanno fatto 4 CD, questo è l'ultimo lavoro, giusto? Sì. E partirei proprio con quello che dà il nome all'album. Lucas. Poi magari ne parliamo un pochino, no? We'll be right back. di me. Rimetti a posto quello che hai preso di me. Rimetti a posto quello che hai preso di me. Rimetti a posto quello che hai preso di me. Rimetti a posto quello che hai preso di me. Rimetti a posto quello che hai preso di me. Rimetti a posto quello che hai preso di me. Quello che hai preso di me. Luca sta incontrando, non riesce a uscire dalle sue gabbie. Costretto, aiuto dalle conoscenze. Luca sta fuori dal mondo, da ogni contesto. Luca sta in mezzo. Luca sta incontrando, non riesce a uscire dalle sue gabbie. Costretto, aiuto dalle conoscenze. Luca sta fuori dal mondo, da ogni contesto. Luca sta in mezzo. Luca sta in mezzo. Quanto è difficile, quanto è difficile trovare artisti autoprodotti che in qualche modo propongono un modo di far musica in modo diverso, insomma si sforzano a mantenere certe situazioni e ce l'abbiamo qui questa sera. Allora, io andrei un attimo avanti, dopo le domande che vi ha fatto il nostro caro amico Cocot, proverei a farvene qualcuna io. E vorrei chiedervi una cosa. Perché no? Io ho ascoltato attentamente questo vostro lavoro e posso riconoscere delle bellissime situazioni musicali che mi hanno coinvolto, grandissime melodie, per quello che ho provato io mentre lo ascoltavo. A volte ho trovato però troppo forzato, e permettetemelo, è una critica, ma voglio anche una risposta, cioè sto qui per provocarvi e voglio delle risposte. Ah, bravo. A volte diventa troppo strillata la voce e uno fa fatica a capire il messaggio, perché poi voglio dire, voi non siete banali, cioè non vi fermate all'apparenza, cioè uno fa un allestimento esterno e io vedo l'allestimento e poi non so quello che c'è all'interno. L'interno è dato anche dal testo oltre che dalla musica. Allora a volte io personalmente ho fatto un po' fatica a seguire quello che sono i testi. Allora mi domandavo, no? Non per commercializzare il prodotto, però per renderlo appetibile al primo ascolto, perché a volte è spesso così strillato il vostro modo di proporre la musica? La risposta che parte dal retaggio potrebbe essere, questa è una componente hardcore, una delle componenti hardcore che incontra più il nostro gusto musicale. È lo stato d'animo che spesso comunque traspare dai testi, che tende a spingerti verso qualcosa di più urlato piuttosto che qualcosa di parlato. Comunque so testi piuttosto di disagio in qualche maniera, non siamo un gruppo di feliciotti, insomma. Sì, chiaro. E questo è di buona sostanza, è una via di mezzo tra il retaggio dell'hardcore, comunque anche italiano, appunto stavo parlando prima un po' di onda di negazione, esatto, e quello che è il significato del testo, è coerente con il testo il fatto che venga urlato in quella maniera, col disagio che spesso traspare da quello che, disagio, rabbia, che spesso traspare da quello che diciamo, da quello che raccontate poi alla fine. Ma a che cosa vi ispirate? Cioè questa è una domanda un po' più soft, cioè voglio dire la vostra ispirazione, cioè nel momento in cui componete un brano, a che cosa si rifà? Cioè come nasce un pezzo? E quando... Aspetta, stiamo parlando del processo creativo o di idea di testo? Io intendo processo creativo, cioè nel senso che io penso che l'idea del testo nell'album, nel brano, è quasi automatica al processo creativo, cioè nel senso l'ispirazione accende tutta la canzone e poi c'è l'arrangiamento e quello viene dopo. Esattamente come detto, in genere nasce da un riff di chitarra, un giro di basso magari abbastanza estemporaneo, poi si sviluppa, si cerca di creare una struttura di base di un riff o di una canzone che almeno ha due movimenti, che so, un riff principale, un ritornello, magari un bridge in mezzo, e poi Stefano o alcuni di noi, Lorenzo, io, o alcuni dei nostri amici che spesso, che a volte ci danno una mano, ci hanno dato una mano anche qui, tra cui Mimmo dei DBM, si discute, si parla su quello che si vuole affrontare, che ci ha in qualche modo trasmesso, che ci ha colpito magari in quei giorni intorno a noi, e si tira fuori qualcosa, insomma. No, ma infatti, cioè, non parlerei mai di disagio, cioè, ti dico la verità, secondo me l'urlato è perfettamente adatto al tipo di musica che c'è sotto. Mm-hmm. Cioè, nonostante, cioè, io penso che scrivere un testo sia la cosa più difficile in assoluto, nel senso che magari 300 persone lo fanno in maniera facile, dicono delle cazzate, cioè, e invece no, invece tu devi riuscire a dire in quel tempo, cioè, purtroppo la musica c'è uno spazio, un tempo, è tutto molto breve, è tutto molto corto, e tu devi scegliere le parole adatte a quello spazio, e poi insomma, dai, so che faccio, canticchio su un riffone ancora. Cioè, no, era una provocazione, no, chiaro, no, cioè, sì, cioè, io, in modo diverso, molti dicono: come mai hai scelto questo genere musicale, eccetera, invece io te l'ho posta, no, ma è diverso, cioè, stupenda, voglio capire il perché oggi voi vi presentate così, perché ma voi perché fondamentalmente così, e come ci siete arrivati, vedete, abbiamo chiesto dove siete conosciuti, sì, no, ma noi il percorso abbiamo fatto, cioè, e voi lo stiamo scoprendo insieme, e soprattutto musicale, perché quando eravamo quattro non suonavamo così, perché, ma forse i testi sono stati sempre un po' così. Però quella è una linea comune da vabbè, prima diciamo che facevamo più noise puro proprio, cioè. Okay. E invece mo il suono si è forse un po' appesantito, ma anche ammorbidito da un certo punto di vista. Per quanto riguarda il cantato, ecco, ti ripeto, io cerco di fare il meglio possibile e poi più di questo non so fare, quindi c'è stata quella è necessario, cioè, voglio... questo cantato è abbastanza necessario. Voglio dire, il risultato è buono, cioè, l'ho detto prima, l'ho detto, ho anticipato, cioè, a noi è piaciuto, noi ne abbiamo parlato per parecchio di quest'album insieme e delle nostre impressioni. Poi è chiaro, mi devo vestire del ruolo dell'intervistatore e ti devo un po' mettere a un angolo e cercare di tirar fuori il meglio di te, no? Cioè, è un po' un gioco, no? Che dici, Cocot? Passiamo ad un altro pezzo o vuoi chiedere qualcosa? No, cosa passiamo questo pezzo e poi chiederemo a loro della traccia Lucas, che devono spiegarci cosa significava il titolo e la traccia, tutto quello. E vai, sì, un altro pezzo adesso di Slayer. magari. Il 3 aprile sono andato. Io ci stavo l'altro 3 aprile, oh. Sì. Cioè le scarpe, guarda che scarpe che mi sono diventate nere. Sono dimagrito. Con un filo di voce, palcoscenico al neon. Che ti lascia le spalle con un filo di voce. figata, che figata, che figata, che figata, che figata. Cioè stanno nascendo delle cose bellissime che non vi diremo adesso. Vi diremo che però questa puntata sarà lavorata e postata sul nostro blog, e così potrete riascoltarla e conoscere così in anteprima anche il loro nuovo lavoro, insomma. Io vorrei chiedervi una... Prego, sei aperto? Guarda, quando vai quell'occasione per salutare Chiara degli Amnesia e tutti gli Amnesia in toto, che sono un gruppo di queste parti, tra l'altro. Esatto. E Chiara è la guest, è la screaming voice che c'è su questa canzone. E secondo me, insomma, è una bella, una grandissima screaming voice. Quindi, cazzo, cioè, la saluto e gli mando un abbraccio. Con ordine. Lucas, significato, spiegatecelo. Lucas, allora, viene dalla mente contorta di un nostro fratello, chiamiamolo compare, fratello, amico creativo, che si chiama Mimmo, e che sarebbe il cantante di un gruppo che si chiama DDM, Diversi dal Mucchio, che suoneranno con noi il 7 maggio, che è il giorno in cui presenteremo il disco. Allora, Lucas, insomma, è, diciamo che lo potrei riassumere in questo modo: è il lato oscuro di ognuno di noi. E noi veniamo da un disco molto aperto verso l'altro, molto politico, molto sociale, che era Disordine Nuovo, no? Che era il disco dell'anno scorso, e affrontavamo temi soprattutto esterni alla persona, insomma, cioè esterni nel senso, cioè la vita comune c'era sempre, cioè la realtà c'era sempre. Questo disco va un po' più in fondo, va un po' più, non c'è, diciamo, non c'è lo sfondo politico, c'è una ricerca più introspettiva. E quindi niente, questo era un testo che ha scritto questo ragazzo, questo amico nostro, insomma, e che niente, a un certo punto abbiamo capito che era l'unico modo per chiamare sto disco, l'unico nome adatto a sto disco, perché è veramente, secondo il testo della canzone, insomma, è l'introspezione proprio, è la liberazione della persona, dell'essere nei tempi e negli spazi in cui non siamo condizionati da niente, fondamentalmente. E quindi, siccome siamo un gruppo dalle tematiche molto negative, allora io penso che se possa riassumere così, è il lato oscuro che ogni tanto esce. Faccio una domanda altrettanto provocatoria come quella di prima, perché poi, insomma, mi piace stuzzicarvi. Oggi 2011, che significato ha la politica? Cioè, aspetta, faccio una piccola premessa, permettimi. Sei di fronte a uno che, insomma, qualche anno più di te, ha fatto delle cose prima di te, ci ha creduto, insomma, e tutt'oggi non per niente abbiamo una radio, in qualche modo, anche se non ne parliamo, facciamo politica. Abbiamo scelto di utilizzare le licenze Creative Commons che ci svincolano dalla SIAE. Non è politica? Sì. No, è politica. E quindi, ma oggi che senso ha far politica quella che fate voi, insomma, in qualche modo voi, producendo alcuni brani, facendo alcuni album, state facendo politica? Vabbè, allora, tutto è politica, cioè l'hai detto proprio te, quindi sì. Io sottolineo quello che hai detto te, il fatto di mandare gruppi Creative Commons, il fatto di fare una radio senza 1000 lire, con 2 computer e mixer, senza far pubblicità, senza essere per forza sponsorizzati, cioè tutto è politica. Noi se il fatto di far politica prima era più evidente per quanto riguarda il palcoscenico al Neon, mo io parlo più di attitudine, insomma. Mm-hmm. Cioè, quindi un fotografare le situazioni e raccontarle, sì, mettendoci la passione. Non si può prescindere. Il fatto che tu mi fai questa domanda mi fa strano, perché non me la dovevi fare te, capito? Perché, sì, lo so. Cioè, secondo me era più logico che me la faceva uno che non gliene è mai fregato niente, no? Sì, allora, però... che mi diciamo, cazzo, i palcoscenici vanno politica, no? Non... No, è chiaro. Ne capisci? Chiaro, cioè, certo. Nel senso, cioè, io sono convinto che io sono operaio e quindi sono costretto per andare avanti, sono costretto a crederci, per rispondere a questa domanda. C'è sto disco, secondo me, da sentire. La domanda successiva è questa: vuol dire aver rivisto le proprie posizioni, o è solo un percorso che, quindi c'è, cioè, dal primo al quarto album c'è un percorso che i palcoscenico al Neon fanno, e quindi seguendo questo percorso segui anche un'evoluzione? Beh, c'è un'evoluzione anche personale, cioè le idee e le convinzioni sono le stesse, politicamente a livello personale nessuno di noi si è scostato d'un millimetro, anzi forse siamo anche un po' incazzati di più di prima, perché poi non trovi le risposte che vorresti, questo, certo, è il problema, perché dall'altra parte poi non trovi le risposte che vuoi, non sai dove, a quale santo rivolgerti, non lo so, non c'è rappresentanti, diciamo, esatto, così, esatto. Non abbiamo rivisto le nostre idee, c'è semplicemente la, come diceva giustamente Ciccio, la necessità di sì, ok, c'è anche altro, però, esatto. Cioè, noi siamo pure questo e quest'altro, quello era quasi diventato un nostalgico, una nostalgia quasi superficiale a un certo punto, perché, certo, abbiamo detto ok, perché siamo così, perché abbiamo queste idee, per questo motivo, per questo disco. Esatto, esatto. Infatti mi sembra che come dicevate e ribadivate, in questo momento in qualche modo c'è stato uno scavarvi all'interno per cercare certe situazioni, che poi è quello che spiegavamo prima. Della canzone che abbiamo appena sentito invece ci vuoi dire qualcosa? Sì, vabbè, con un fio di voce. È una canzone che prende spunto da un momento reale, no? Mi ricordo sbirro di un momento migliore, cioè fondamentalmente è una canzone d'amore. Uh-huh. E se state, ci siamo trovati davanti a una situazione un po' di già una storia che è finita di un ragazzo, cioè di un componente del gruppo che ha finito una storia lunga, no? E niente, fondamentalmente senza poi volermi riferire proprio a quello, però, cioè, mi sono reso conto che, cioè, due o tre parole messe insieme, poi un ritornello preso così, cioè, era tutto quello che stava a vivere in quel periodo, perché è una cosa che, cioè, io personalmente ho sentito, mm-hmm, da vicino, perché comunque è un amico, uno che ci vivi tutti i giorni insieme, se un giorno non lo vedi, comunque il giorno dopo vedi il doppio, cioè, mm-hmm, quindi e niente. Poi mi sono accorto dopo che sta canzone con un filo di voce è proprio una canzone d'amore, cazzo. No, cioè, non me ne guarda che alla fine, scherzare. Alla fine te, cioè, ne sei accorto. Dopo che ho fatto tutto il testo, dopo l'ho cantata 10-20 volte, ho detto, porca troia, è impossibile. Allora, sono quelle canzoni che nascono, pensa, dallo stomaco senza, cioè, d'impulso. Però, sono... vedi, pure questa è proprio una canzone che rispecchia il suo periodo, cioè, fondamentalmente è meglio guardasse dentro, esatto, e basta, poi quello che esce. Ma voi avete detto che in qualche modo c'avete una sorta di negatività, no? Sì. Intorno. No, beh, quello l'ho detto io. Sì, ma, nel senso, a me non sembra, perché poi io ritengo che le persone che si domandano sono le più belle, perché poi alla fine troveranno, non troveranno mai una risposta, lo dice uno che non ne ha trovato ancora una, però poi alla fine non subisci. E qualsiasi cosa la sai analizzare, la sai guardare, la sai mettere al posto giusto, e questo te lo dico io, okay. Io lo accetto e basta, e non mi contraddire. No, ti contraddico. Lascio un attimo il microfono a Cogot, se no diventa la trasmissione solo mia e non va bene, vero? E comunque io invece di fare queste domande al gruppo per sapere dove vanno, cosa fanno, dove sono incontrati, mi piacerebbe chiedervi una domanda che leggo sempre sulle riviste, che mi piace un sacco, cioè mi piace la risposta che danno i gruppi perché sono interessato. Ma mi volete parlare dei vostri gusti musicali, allora dei gruppi, chi sono stati i gruppi che vi siete ascoltati, da Pischelletti, Tomassono, io sono, dimmelo per favore. Cominci tu. Dai, vai, comincia tu, Enrico. Dai, Enrico, comincia. No, ma anche guarda che anche gli ascolti, dico, io per esempio ho suonato il sax in questo gruppo progressive. E voi direte, va bene, perché hai scelto di suonare il sax? Saresti l'elemento preferito di suonavo il sax, dice, ma perché? Perché ma il jazz, John Coltrane, ha visto il pezzo. Dice no. Io? Capetti. No! A me mi piacevano gli Spandau Ballet, c'era il sassofonista! Ho sentito Spandau Ballet e tu usano il sassofono, perciò vai, Enrico. Vado, no, allora se tu sei partito di Spandau Ballet sto un pezzo avanti. Ah, i primi gruppi, proprio il primo amore sfegatato furono i Litfiba. Ok, bello. Litfiba, sì, sì, decisamente 10 anni dopo. Con te, però con te, mister Gasperino. Però c'è un nel mio background c'ho cioè una cosa del tutto, come dire... Ti vergogni, no? No, no. Quelle cose che va in giro e ci ho pure rimorchiato con sta stronzata. Beh, pensa che storia. Che da 8 anni mio padre mi portò a vedere i CCCP, che è stato il mio primo concerto della vita. Sì, sì, è stato bellissimo a Guidonia. Oh, figata. Sì, questa. Bellissimo, della rotenda. Pensa. E mio padre era preoccupato. E comunque questi fanno parte di... E poi sì, c'è il grande flash del metal con i Sepultura, i Megadeth, ecco. I Pantera. I Pantera del 91, mamma mia. Sì, e poi siamo tornati in Drogata Tecnica e ci è piaciuto più l'hardcore, infatti. Eh certo, no, infatti io mi ricordo quel periodo che siamo così. C'erano Nirvana, i Pantera, i Slayer, i Megadeth. Beh sì. Vabbè, noi ci abbiamo un'età che fortunatamente questi gruppi abbiamo visto in televisione. Su MTV che prima no, era Video Music. Video Music. No, su MTV. Che ci sono gli Aerosmith. No, ma ci stanno, cioè, Slayer, Metallica, tutto. Cioè, Aerosmith tutto, con... Cioè. No, gli Aerosmith insieme ai Randy MC. Rock His Way, oh. Sì, c'era quel video che è uscito a quell'anno. E il video pauroso. No, no, beh, no, per fatto, giudica, fatto. Giudica anche i suoi gruppi. No, vabbè, io... non so che dire, fondamentalmente io non vengo da una famiglia senza cultura musicale, lo dico però tranquillamente, lo dico. E chi ti ha aiutato? No, mi pare, cioè, si ascoltava solo Celentano e quindi purtroppo casa mia era quella e quindi forse da lì, forse proprio grazie a Celentano. Che hai avuto cantare la tua vita? No, io ho detto vabbè fammi ascoltare altre cose. E quindi so. Questo è un esempio negativo, sì, sì. Poi certamente questa stessa disfunzioni musicali che non c'è sta più. Non c'è più a San Lorenzo. È stata una serie di cose che fortunatamente abbiamo vissuto, ma adesso basta. Stanno a fare troppi trentenni. No, trentenni sfigati. Mister Gasperino vuoi Mister Gasperino vuoi rispondere anche tu? Dai, mo ci dice che sta sentendo lui. Vabbè, io partirei dai Pink Floyd, quindi stavo lì, quei tempi lì, poi ci fu un gruppo irlandese che fece sognare, che si chiamavano gli U2, poi insomma i Queen, per dire. Sì, è democratico sui gusti, eh? Io sì, molto. No, ma ti vorrei far capire una cosa, io, questo per rispondere ad Antonio che ieri ci diceva, perché no la CIA, no la CIA, cioè, voglio dire, noi la CIA l'abbiamo seguita, abbiamo vabbè, comunque noi mai questo discorso, però voglio dire, noi abbiamo fatto 2 anni di collettivo anti CIA, eh? Dicevo che un'altra domanda non è contro la musica che è sotto CIA, siamo contro il sistema CIA e questa è la cosa diversa, perché i gruppi sotto CIA ci piacciono a tutti, abbiamo tutti ascoltati, perciò siete avete studiato musica o siete come la maggior parte della gente che conosco, si è formata da sé? Siamo autodidatti. Quindi autoprodotti, autodidatti. Autocose, benissimo. È bello questa cosa, mi piace. E quando fate un pezzo, e un pezzo termina, anche e soprattutto questa mi piacerebbe se la immaginasse dal vivo come domanda, no? Che è terminato un pezzo dal vivo, sentite che ogni volta arrivate allo stesso punto che volevate arrivare, alla stessa intensità di quello che volevate arrivare, oppure le sensazioni e le emozioni variano in base alle situazioni? Questa è, vabbè. Guarda, cioè personalmente poi magari dirà pure il mio compare qui la sua. Cioè, per me è proprio la cosa fondamentale è il feedback con le persone che ci abbiamo davanti. Se non c'è quello, cioè, sì, le canzoni, cioè, per esempio, le canzoni di quest'ultimo disco ci piace molto suonarle. Cioè, lo dico proprio sinceramente. Però se blocchiamo nella serata la partenza, cioè quando uno fa una cosa che gli piace, è la partenza, no, e no, poi ti posso assicurare che è quello che poi uno percepisce dall'altra parte, no? Sì, quando no, chiaro, la passione Per esempio, no, ne dico una, abbiamo fatto le selezioni di un concorso musicale, non abbiamo mai fatto concorsi perché sono sempre stati contrari. Poi Italia Wave, no, dai, lo dico così, almeno che era il vecchio Arezzo Wave, no? Arezzo Wave, cazzo, era figo. Vabbè, mo io mando un pezzo, ci hanno preso e non so manco perché ci hanno preso. Abbiamo fatto queste semifinali, per carità, abbiamo suonato per andare, abbiamo suonato a Contestaccio giovedì scorso. Per tutto bello, ok? Sì, vabbè, siamo usciti, siamo abituati. Non è questo del concorso, è questo devo parlare del feedback. Cioè un pubblico di persone sedute, non lo so, non stavamo sempre là fomentati e dire, oh, noi siamo questi. Ma certo, a cantarsi in aula. Comunque siamo piaciuti, perché fondamentalmente siamo piaciuti, però dai, sono persone sedute, io ne posso vedere i concerti. No, no, un altro posto. Avresti suonato un altro posto, penso che poi di gente che schermava la sera. Ma ti ripeto, tutto sì. Bello darti i gruppi forti, per carità, cioè, però secondo me un gruppo come noi è molto emotivo, ma è una cifra, cioè almeno io, poi ovvio che è soggettivo, se l'altri sono capaci a chiudila, chiudi gli occhi e andare avanti come trono, cioè io a volte lo faccio, però ecco, mi bastano 10 persone che si saltano uno addosso all'altro che io vado proprio Ma prossimi concerti, prossimi concerti qua in giro? Ma prossimi concerti il 7 maggio. Allora 7 maggio al Bistesto Musicale, cioè dalle parti nostre, Roma Est, okay. E veniamo a Cilia Latena Occupato in primo di giugno allo Xeno Festival. Questo è il secondo anno di seguito, che è una domenica e siamo qua a due passi. Perfetto. Fateci uno squillo che dopo il concerto ci andiamo a bere un tè. Beh, direi di sì. Un tè. Beh, sì. Camomilla. Un tapperoni, sì. Credo. Io passo un pezzo. Quale? Brucio di vita, che è una cover, appunto, di uno, diciamo prima, di Neffa. Negazione. Pensiamo alla batteria, nei negazione. Negazione. Negazione! Tutto il giorno di anche nero, tutto stiamo chiacchierando del più del meno e ci stiamo praticamente facendo i beati fattacci nostri. Allora, siamo sempre qui su un'altra Radio Roma, siamo sempre qui con i nostri simpaticissimi amici di palcoscenico al Neon, Aerosmith, e vorrei fare una domanda idiota, visto che la domanda idiota risponde Enrico. Allora, da che nasce il nome del gruppo? No, risponde lui alla domanda idiota. Ha scritto te, scusa, cioè che... No, vabbè, allora c'ho due tipi di risposta. Una è quella professionale e una è quella vera. Allora, io voglio la vera, la professionale. Dico quella vera, intanto sì. No, professionale. No, allora. Poi la facciamo così, guarda, la ritengo, dopo la faccio sempre. No, non serve, guarda. Ma non serve, cioè a un certo punto siamo detti, ma perché ci chiamiamo così? Allora, tutti quanti hanno diciamo, come metti il foglietto dentro al bicchiere, il foglietto, ognuno ha un'idea del stesso nome, e poi in realtà è un titolo di una poesia, un testo che ha scritto un'amica nostra, una quindicina di anni. Questa è l'idea. Quindi una vostra amica ha scritto una poesia che si chiamava Palcoscenico. E niente, quindi se sono un attimo fermati, cioè fondamentalmente a me manco mi piace questo nome. Però come ti chiami? Cioè, obiettivamente, come lo chiami in gruppo? Cioè. Quindi va bene, no, vabbè, ma non devi neanche cambiarne il nome, va bene Palcoscenico. No, ma non cambieremo mai, cioè. No, è figo. Per cioè, dire, cioè, in qualche che... modo dà un'immagine. Ma sì, fondamentalmente è. La domanda invece seria, è questa. E chi la paga la corrente? A del Neon. Questo risponde lui. Per fortuna il Neon è a basso consumo. Bravo. Fondamentalmente il Neon è l'illuminazione dei luoghi di lavoro, quindi semmai la scocchiamo la corrente. Esatto. Quanta fatica c'è dietro a tutto questo progetto? Voi avete fatto 4 anni, quindi io c'ho uno sforzo. Non stiamo a parlare di una band di fresco pelo dove figa abbiamo fatto l'album, no? Comincia a sentirsi un po' la fatica è tanta, e tanto pure sono difficili pure le scelte che si fanno rispetto al dove suonare, perché comunque sia resta nelle nostre vite una priorità. Cioè, personalmente i periodi che magari ci fermiamo d'estate, cioè, è una vera sofferenza fisica rispetto al non suonare. Il lavoro è una componente molto forte che influenza tantissimo la vita del gruppo, ovviamente. Certo, limita. Sì, siamo presto, che attacchiamo tutti presto la mattina, qui suonare è un sacrificio. Poi quando ti trovi a non essere pagato nei locali, a non essere... che il tuo lavoro, cioè quello... lavoro inteso come la tua creatività non viene ripagata, lì è brutto perché ti senti davvero svilito in qualche maniera, però anche sti cazzi, se si può di sti cazzi, certo. In radio, perché sostanzialmente tu puoi dire quello che vuoi, nessuno, l'unica cosa che non puoi dire te la dico dopo, perché sennò ci bloccano, te la dico dopo, tanto non la stai dicendo, quindi vai tranquillo, puoi anche farlo quello, però non lo facciamo per rispetto di chi ci ascolta. No, perché è la cosa più idiota che esista al mondo, poi ce lo diciamo. Sono proprio curioso adesso. Sì, allora facciamo così, guardate, siccome voi non lo potete sentire, perché poi ci proviamo dopo, così ve lo dimostriamo, cioè se noi lo diciamo ci interrompono e quindi lo usiamo dopo. Per chiudere la trasmissione, okay. E vediamo se funziona, perché io ne ho una prova sistematica. Allora, altro pezzo, mi sembra. Senti, voglio sentire Cuore di Cane, che ne dici? Vai. Dentro la mente spoglia che muore nel mio pensiero. La russa si può dire allora? Sì, la russa sì, perché noi facciamo. No, aspetta, guarda, se sì, la sì. russa si può dire. Sì, la russa si può dire, noi facciamo un discorso. La russa coglione si può dire. Sì. Se è quello che pensi si prova, andrebbe motivato, perché così poi diventa un semplice, no? Cioè un insulto. Cioè noi avevamo spiegato in quella trasmissione, in quella trasmissione. Sì. E a proposito della russa, sai che sta un comizio della russa è ripreso in un film di Gian Maria Volonté, è proprio l'inizio. Penso fosse il 74 quando 75, faceva il picchiatore, quando faceva il picchiatore e urlava contro il comunismo. Il film è Sbatti il mostro in prima pagina. I primi, tutta la prima scena è la russa che chiacchiera, capellone brutto anche allora. Vabbè, ma voglio dire, i trasformismi fanno parte della storia italiana. Cioè, io mi ricordo anche altri personaggi nella prima repubblica, insomma. Bondi se può dire. Sì, sì. Non gli ho detto sta cosa, finché non chiudiamo la trasmissione lui va avanti. No, basta, ci basti. Bondi è Massimo Bondi. Massimo Bondi era un comico e faceva parte della combriccola insieme a scriveva l'Unità, scriveva sull'Unità. Riprendiamo un attimo le redine della. Vorrei, visto che abbiamo preso un discorso alla larga che va lontano dalla musica, ma poi in fin dei conti voi spesso riutilizzate certi esempi, io vorrei chiedervi una cosa. Questa è la domanda, spesso l'abbiamo chiesta anche a altri artisti. Noi veniamo da esperienze anche estere, nel senso abbiamo girato il mondo e abbiamo visto alcuni episodi, alcune scene musicali totalmente diverse da quelle che sono italiane, no? Allora, convinto che in Italia ci siano ottime band, ottimi artisti, io ne sono nell'underground, nel sottosuolo girano delle band fantastiche secondo me, io ne sono certo, però noi per esempio in Olanda esistono le classiche vetrine dove le band suonano, la gente ci va, se ti piace ti compri magari il disco, se ti piace, se non ti piace non ci viene, e tu hai avuto comunque la possibilità di provare a comunicare, quindi se vali vai avanti, altrimenti ti buttano in un cesto, non ci sei più. Ma in Italia che cos'è che frena un processo che potrebbe essere, cioè noi abbiamo avuto artisti che potrebbero essere veramente eccezionali, però poi magari sono rimasti sconosciuti in Italia e famosi all'estero. Perché in Italia? Poi cazzo, se eravamo un paese di cultura noi, ma la nostra cultura che fine ha fatto? È andata in televisione. Oddio, sì. Questo vuol dire che è morta nel momento in cui è entrata nella televisione. Esatto, è morta immediatamente dopo, soffocata da tutta quell'immondizia. Che, beh, una volta il sistema musicale in Italia anche funzionava in un certo modo, nel senso che comunque c'era sempre movimento. Il problema è che le persone non tendono a non incontrarsi più, per cui non incontrandosi più fisicamente non vanno più a vedere musica insieme. Cioè, nel senso che il problema è che le persone non si incontrano più, per cui non c'è più realmente occasione di vedesse, c'è più interesse a rimanere davanti alla televisione, al computer, piuttosto che a incontrare altre persone, discutere o andare a vedere concerti, cinema, cioè il resto, tutto quello che è aggregazione, che è vita pubblica, sta fallendo in Italia, ossia tutto quello che è cultura, vedi il cinema, vedi la musica, vedi il teatro. Non c'è un sistema dietro, è un problema culturale a questo punto. Sì, però vedi, però mentre prima c'erano, come dicevi tu, i tempi erano diversi, c'erano magari delle etichette minore che comunque tentavano e spingevano su artisti, e a volte magari ci vincevano e poi emergevano questi passando anche a etichette maggiori, no? Oggi questo non c'è. Se io mi devo rifare, voglio dire, perché le risorse che c'erano e che venivano impiegate per queste persone vengono impiegate per quei gruppi emergenti, per gruppi che hanno queste possibilità, vengono impiegate per produrre prodotti di persone che escono da trasmissioni televisive o da carriere fittizie attraverso piccoli canali televisivi, persone che magari l'attività live vera non l'hanno mai fatta, la fanno dopo che escono da queste situazioni. Noi invece siamo siamo convinti che in qualche modo si possa far cultura, e ci siamo sforzati quest'anno, magari facendo la stagione del jazz, portando un modo diverso di far musica in un teatro, e ci stiamo lavorando su altri progetti. E comunque, ecco, vedi, poi invitiamo i gruppi e da qui nasce una forma, per carità, realtà come la vostra, come quelle delle associazioni che comunque fanno cultura, diciamo, dal basso, continuano a esistere, e per fortuna che continuano a esistere, ci sono persone che non si sono arrese a questo piattume generale, insomma. Però la tendenza al quello che è il giro di soldi, perché poi servono anche dei soldi per fare delle cose, stanno da tutt'altra parte. Cioè a me fa riflettere anche il fatto che comunque si investa poco su questo. È un discorso che magari prenderebbe troppo una piega politica. Anche diciamo, se la politica, insomma, non è che la puoi lasciare. No, in questo dovrebbe intervenire e aiutare, magari, lo sto dicendo io, cioè sto criticando anche gli ultimi tagli fatti alla cultura. Sono scandalosi, ma sono solo. Sì, ma non l'hanno fatti mica solo lì, l'hanno fatti nella sanità, sono stati fatti parecchi tagli ultimamente. Quindi voglio dire, mettiamolo da parte questo discorso. Vorrei fare un discorso un po' più allegro. Più spensierato degli ultimi episodi. Parliamo dello tsunami in Giappone. No, nel senso, no, Torelli, loro subiscono quanto noi. Allora, domanda allegra. Sicuramente avete fatto concerti, no? Tanti concerti, insomma, qualcuno avete fatto. Ma vi siete mai buttati al palco? Con la gente sotto. Ma ci hai visto? Quando c'era tanta gente. Scusa, adesso ti faccio una. Tu ci hai visto a sti due? Ce la fate? Fai una stima di peso. Con che incoscienza te puoi. No, però in un bel concerto dove c'era tanta gente. Ci avete avuto un bel concerto con tanta gente? Sì, ci abbiamo avuto qualche concerti con tanta gente. Ci si poteva buttare sopra, era possibile. Sarebbe stato. A parte, non era il nostro concerto, noi eravamo imbucati nelle spalle. Però sì, però francamente io non me la so sentita, cioè penso che io mi vedo uno dei 100 kg che si butta un palco e scansi. Cioè, è pericoloso, cui... è brutto, ma quando sta giunto più tira su. No. Chiedi a lui. Chiedi a lui, l'ha fatto, ecco, l'ha fatto, Stefano lo sta mettendo. Quando possiamo suoniamo sempre sotto il palco, quindi cioè non ci buttiamo sulle persone, però suoniamo a mezza persone. Cioè è capace che più invece... a volte più svarie comitate e cazzotti così, perché certo. Mi allungo sempre col microfono in mezzo, ma comunque se c'è, cioè noi cerchiamo sempre di eliminare la cosa palco, il gruppo sta sul palco contatto, e poi c'è sta gente sotto, cioè fondamentalmente a me manco mi interesserebbe buttarmi sulle persone, cioè preferisco proprio suonare in mezzo alle persone. Beh, quello è meglio. E un posto lontano che avete suonato a Roma? Ci sarei andato in giro per l'Italia? Sì, sì, noi abbiamo suonato direi quasi in tutta Italia, da nord a estremo sud. Da Milano, Udine, in Valsusa, Torino. Ha risposto pubblico? A... venuti? Beh, guarda, io ti dico la verità, ci sono state serate che hanno funzionato benissimo, anche noi essendo il gruppo da fuori, cioè poi ci siamo sempre trovati in circuiti in cui con tutti i gruppi alla pari, cioè quindi con qualche noi gruppo andiamo... invece famoso, un po' più famoso qui. Beh, dei Italia. Gruppi famosi abbiamo suonato con prima di Teatro degli Orrori, Tre Allegri Ragazzi Morti, Yo-Yo Mondi, Pancreas, i Pancreas, sì. A Faro l'anno scorso, due anni fa, sì. Invece il Teatro degli Orrori, i Santo Niente, Umberto Vazza al Santo Niente, il Teatro degli Orrori invece come sorte, l'anno scorso chiusi quando erano One Dimensional Man. Beh, lo so ancora, dovrebbe uscire qualcosa di One Dimensional Man. E col Teatro degli Orrori l'anno scorso a Palestrina, umanamente? Beh, sì. Cioè, qualcuno di loro c'ha un muro a prima vista, invece dopo 3-4 ore che ci mangi, ci bevi, che se ne sono andati tutti, me sono persone normalissime. Cioè, pessime come noi, sono persone proprio così, sì. Volevo farvi notare la struttura della trasmissione, dove io cerco di scavare dentro certi argomenti e lui mi chiede chi ascoltavate, oh figli, ah, bella, di bella, con chi avete suonato, oh figli, di voi non mi ha chiesto nulla. Passiamo un pezzo? Passiamo un pezzo, dopo che abbiamo capito che le trasmissioni radiofoniche si fanno in due per compensarsi. Perciò mandiamo subito un altro verso. Autocontrollo, palcoscenico al neon, con la K, con la K, con la K, con la K, con la K, con la K, con la K. NRR. Perciò adesso siamo arrivati alla domanda, quella che viene sempre rivolta agli artisti, e di farvi una domanda e di rispondervi. Questa è una cazzata. Vai, ri. Altrimenti uno di voi deve fare la domanda a quell'altro. Non vorrei mettermi in imbarazzo. No, no, Enrico, fai la domanda a Stefano, vai. No, prima la fa Enrico a Stefano. Dai, me la faccio. Dai, che stai a fare? Se sta mai infognando su una cosa che... Famosa la domanda io a te, dai. Che è il Bruno Vespa dei Radio Indipendenti. Lui studia. Ma lui studia la notte, si mette lì mentre lui lavora, davanti al computer, a spese del datore di lavoro, si informa e studia i grandi intervistatori tipo Marzullo, tutto su YouTube, scarica tutti i giorni, vabbè. Normalmente i vostri album nascono durante la tournée o avete dei momenti in cui vi fermate e cominciate a lavorare su dei brani e poi piano piano nasce un album? Beh, guarda, cioè, in realtà questi pezzi qua dal vivo li facciamo da un bel po' di tempo, quindi, anzi, addirittura la presentazione dell'anno scorso di Disordine Nuovo, del disco dell'anno scorso, abbiamo fatto un pezzo che poi è finito su sto disco, quindi cioè, il processo creativo fortunatamente ancora non si ferma, quindi finché c'è sta vita c'è speranza e andiamo avanti. Il fatto della tournée ci fa un po' ridere, però effettivamente potremmo suonare molto più spesso di quanto suoniamo, quello è vero. Per scelta o... Beh sì, adesso sì. Cioè nel senso adesso, che noi, guarda, noi non esagero, noi i primi 2 anni di vita abbiamo suonato, suonavamo tutte le settimane, ma veramente però è ovvio che poi alla fine diventa figo, perché tu stai a diventare un gruppo, perché suonare è una dinamica di un gruppo. Se tu sei un gruppo pure forte, ma se non suoni dal vivo, se non fai live, la cosa, e quindi più prendevamo coscienza che eravamo un gruppo, più suonavamo. Però poi, invece, poi crescendo ci siamo accorti che forse è meglio suonare un po' meno e un po' meglio, no? Sia nella scelta di tutto, nella scelta delle serate, dei gruppi che suonano con te, e poi soprattutto, cioè poi fondamentalmente, se noi non facciamo live non siamo neanche creativi, cioè quello. Se ci abbiamo lunghi periodi senza, quindi non c'è una separazione delle carriere, ma no, è una carriera unica. Manca quell'emozione, quella tensione, cioè nonostante noi abbiamo fatto più di 200 concerti in 5 anni, in 6 anni, cioè fondamentalmente io quando sono andato dal vivo ancora qualcosa la sento, quel momento che non sento più quella cosa, perde un po' tutto. Beh sì. Sì. È divertente intervistarvi, perché insomma in qualche modo è contrario essere intervistati. No, ma facciamo ridere noi, fate ridere voi, ed è tutto. Mi fa morire. Diciamo che ci avete messo a nostro agio proprio subito. Vogliamo intanto ringraziarvi prima della chiusura, perché insomma, è stupido farla alla fine, perché non c'ha proprio senso. Grazie a voi di essere qui, perché oltre ad aver scoperto insieme questo album, abbiamo fatto una chiacchierata con delle persone che tutte le mattine come noi si alzano, vanno a lavorare e poi investono nei progetti, e si sente poi dal prodotto, no? E la cosa che io vorrei chiedervi, e non per rubare il lavoro a lui, è questa: se proprio poteste scegliere, con chi vi piacerebbe suonare? Cioè, fa un concerto con chi? Beh, io direi La Quiete. Così dico un gruppo underground. Guarda, De Roma mi sarebbe piaciuto suonare con i Concrete, che adesso suonano Sinon Sedesis, gruppi vari, però mi sarebbe piaciuto suonare con i Concrete. Underground, però bello underground. Vai, ora è il tuo momento, Enrico. Noi parlavamo prima dei due bei gruppi, erano appunto i Converge. Gallows, io ci suonerei volentieri da spalla, francamente, li gusterei proprio al lato, da parte. Sì, sì. Sarebbe una soddisfazione. Una bella soddisfazione. Sì, che poi alla fine sono i sogni, le cose personali che uno si pensa da ragazzino, vuole suonare con un gruppo e poi ci suona. Allora io saluto. A te, Mr. Gasperino, che stai laggiù, all'altra sedia. Ti saluto e ti do il microfono, vieni. Dico, allora, io passerei un ultimo brano loro. Che volete che passo del vostro album? Disamore? Disamore. quanto è importante la scenografia in un concerto? La scenografia? In realtà poco. Siamo un gruppo abbastanza semplice dal punto di vista scenografico, scenico. È un gruppo che si rifà al punk, qualcuno non... non abbiamo avuto grosse necessità scenografiche, mai. Importante la sostanza? Certo, certo. No, vabbè, ci potevamo mascherare. Avremmo potuto mascherarci, avremmo potuto. Ma no, non serve, dai. Sì, poi sulla camicia fucsia. Perché fucsia? Cioè, perché la camicia Lorenzo fucsia? Che mette solo camicia fucsia. Sì, c'è stato i primi concerti, avevamo pensato di indossare le camicie fucsia con pantaloncini da tennis bianchi. Poi idea abortita, ringraziando. Cioè, ringraziando Ciccio che ci ha detto ma che è stata a fare. Esattamente. Cioè, qualcuno ogni tanto che si ravvede un momento di lucidità aiuta il gruppo, sì, è questo. Per fortuna c'è una persona con i piedi per terra. Che stava a fa? È bellissimo. Che cazzo stai a fare, sto Gasparo? Allora, io volevo fare una domanda. Ma una domanda intelligente. Ma vi è mai successo qualche tipo di censura a qualche concerto, qualche brano che vi hanno detto no, non potete scrivere così perché è troppo pesante, bla bla bla. Vai, penso che ho fatto una domanda intelligente. Con una certa soddisfazione. Grande, vai. La scenografia, la cornice era delle più adeguate. Ci hanno invitato curiosamente a suonare la festa di Guidonia, città fascista, il concerto fascista nel senso fondata, sì, fondata dal Pelato. Si può dire Pelato? Sì, infatti stavo pensando, ancora non ci hanno portato, c'è Pelato. Sì. E di buona sostanza è successo che il palco era montato nella piazza del comune di Guidonia, per cui proprio nel fulcro dove lui si alzò, e noi giustamente nel nostro repertorio portavamo la nostra versione dei Fischi al Vento, una versione molto hardcore dei Fischi al Vento, e noi era molto hardcore sul palco, però a un certo punto abbiamo visto la gente lì sotto e faceva segno che non sentivano, e di fatto ci avevano abbassato i volumi all'esterno. E la cosa bella è che noi abbiamo finito il pezzo tranquillamente, senza volume, senza, sì, così. Doveva essere davvero una scena davvero molto bella. E poi qualcuno vi ha detto qualcosa, avete parlato con qualcuno? Che... Sì, un tale, si può dire Cassarà. Aspetta, si può dire Cassarà. Cassarà? Sì, si può dire. Okay. Si può dire. Che andò dal mic, dall'omino del mixer e gli disse. E gli disse: "Oh mio del mixer, tu chi ha dato ordine di abbassare il volume? Chi è stato?" Cassarà. Tale Cassarà. Tale Cassarà. Omino che mix. No, ma c'è avuto anche una ripercussione mediatica non indifferente, ne parlavano anche i giornali locali, è molto importante, molto. Sai, ci hanno pure pagato per giorno. Sì coglioni. Cioè, capito? Prima ci chiamano, ci pagano e poi ci abbassano il volume perché non si aspettavano che. Cioè, ma come stai? Cioè, dai, no, veramente, no. Proprio. Penso che potremmo sentire un altro brano. Che io mo sentirei, perché alla fine si sono sentiti tutti. Manca solo l'intervallo. Dai, sì, sentimentiamo in bellezza, scherzando in bellezza la grande col botto. Botto. È il momento in cui batti la vecchia, la cornetta del telefono fa il numero, l'aspetto che qualcuno risponda. È il momento in cui lo squillo è finito, il secondo devo ancora iniziare, i piedi più di gatti. Questa è la tua vita, ricordi, vanno via veloci. Con le mani bagnate sulla la fronte, i capelli. Se c'è sempre un pezzo di specchio, prenda la parete di fronte. Siamo in piedi e guardi l'ombra dietro le spalle. Guardi l'ombra dietro le spalle. Tutto si ferma e prende il fiato. comincerei a salutare tutta la gente che ci ha sopportato e anche quelli che ci hanno sostenuto e soprattutto quelli che ci hanno fatto compagnia. Ringrazierei qui i nostri due amici di essere stati qui con noi una serata piacevole, fatta come al solito a suon di luppolo. Dai, il 6 maggio cerchiamo di farla, 7 maggio cerchiamo di farla sta cosa, e se ci riusciamo stiamo tutti insieme, ed è un modo anche per presentare dal vivo un lavoro che abbiamo presentato su album oggi, insomma, voglio dire, no? Alla fine abbiamo ascoltato quasi tutto. Salutate che i vostri fans. Vabbè, rinnoviamo il saluto ai nostri tre compari che non ci stanno, certo. Vale, Simone e Lorenzo, e che in questo momento chissà che cazzo stanno facendo. Probabilmente staranno nominando tutti e tre quella cosa che non possiamo dire, sì, la posso dire? Sì, ormai la puoi dire, perché tanto se ci interrompono diciamo che la trasmissione è finita. La vuoi dire? No. Allora io spiego. Allora, no. spiego un attimo, allora. spiego che qual è il discorso. Aspettate, con calma. È un esperimento, io sono convinto, perché già ci è successo altre volte, che se pronunciamo il nome del Presidente del Consiglio, in qualche modo Mille Mikes bloccherà questa trasmissione. Allora, questo è l'esperimento. Allora, si può anche dire, senza doverlo insultare, cioè, noi diciamo... Non diciamo, posso insultare? No, dai, su, di il nome intanto, incominciamo a dire di chi parliamo, dai, Silvio. Stefano. Silvio. Cognome? Berlusconi. Professione? Carlo. Quello infame. Non è una professione essere infame. Cazzo, è una dote. Mazzinaro. Vabbè, voglio dire, cioè, se devo pensare un attimo a tutti quelli che hanno fatto il Presidente del Consiglio, io direi professione Presidente del Consiglio. Dittatore. Sì, si potrebbe, però magari alla fine... Che... Ora lascio un dibattito. Finto capellone. Quello sì lo possiamo dire. Possiamo anche dire che è un grande comunicatore, perché riesce sempre a comunicare. Del resto c'ha sei. Ormai hanno mangiato la foto. Sì. Ma non è che questa piattaforma è sua. No. Questa piattaforma di Mille Mikes è per il 50% vaticana, sì, del Papa. E il 50% di Berlusconi. Stefano, vuoi dire qualcosa senza che io ti chieda nulla? Sì, no, vabbè, innanzitutto, vabbè, vi ringraziamo dello spazio e sempre in alto, insomma, in realtà indipendente, e come Savo Abraglio e come persone, diciamo, e siamo stati contenti, insomma, di esserci riconosciuti, cioè, spero ci rivedremo presto anche fuori da, insomma, sti ambiti. E vabbè, dai, uno spottino, se queste canzoni vengono da un disco nuovo che si chiama Lucas. Noi siamo Palcoscenica al Neon, ci vediamo il 7 maggio al Dissesto Musicale, che è un locale delle parti nostre, insomma, per chi ci vuole vedere dal vivo. Sì, vabbè, Tivoli Terme, Guidonia. Ma chi volesse acquistare l'album, averlo, insomma, in qualche guarda, modo? A parte che le copie devono ancora arrivare, però insomma vogliamo fare un prezzo imposto, cioè, di penso 5-6 euro, adesso decidiamo, ma non di più assolutamente. E dove lo possono reperire? Tramite noi, tramite i nostri spazi, tramite il nostro MySpace. Il nostro myspace.com/palcoscenicalneon, o se no, insomma, sugli altri social network, Facebook, insomma, è quello un po' più, anche se, insomma, con tutte le conseguenze del caso, insomma, però se ci volete contattare lì, vi mandiamo una copia del CD tranquillamente. Il CD autoprodotto non è distribuito solamente da noi, quindi o ci venite a vedere dal vivo sui nostri banchetti lo trovate, o se no ve lo spediamo via posta tranquillamente. Ok, perfetto. Il prezzo è imposto, insomma, dobbiamo ancora decidere, ma comunque sia, è non più di quello che ho detto prima, insomma. Bene, allora, di questa puntata ne faremo un podcast e lo metteremo sul nostro sito, che è www.nantradioroma.blogspot.com. Chiunque abbia voglia di contattarci lo può fare tramite un'altra radio @live.it. Siamo a disposizione di tutti, 24 ore su 24 metteremo Mr. Campo a disposizione di tutti. Detto questo, diamo appuntamento a... L'appuntamento è il prossimo lunedì 11 aprile con Jazz a Teatro, che ci sarà di nuovo Paolo Pavon Quartet. Detto questo, fra 15 giorni incontreremo un altro gruppo qui su un'altra intervista. Ringraziamo il palcoscenico al Neon, se vi trovate nei pressi dei loro concerti andateli a vedere, perché così vi divertite un po'. Uscirete sicuramente un po' più scarichi, ma più carichi. Diciamo così. Va bene? Ciao ragazzi, ciao a tutti e tutte. A tutti quanti. Pronunciamo un saluto e ringrazio un'altra radio. Un saluto a Enrico e un saluto a Stefano. Grazie. E ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno sopportato. Buonanotte da un'altra Radio Roma. Ragazzi. Un'altra Radio Roma. È tornata. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. Ok, questa è la mia trasmissione. Ragazzi. C'è tempo per noi, né nessuno. Ma proprio nessuno. C'è tempo, non è. Bastardi. Buonanotte a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. E buonanotte a tutti. Alto. Buonanotte a Gattolino. Buonanotte a DJ Bruttolo. Buonanotte a DJ Dogo. Buonanotte a nessuno. Buonanotte a tutti. E buonanotte al cazzo.